Allora, come sappiamo benissimo, il tema, la visione per quest'anno per la nostra Chiesa è Sorgi e risplendi. Isaia 61. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Wow, che verso pieno di incoraggiamento. Quanti come me sono stati incoraggiati da questo versetto? Oh, tantissimi. A me personalmente questo verso ha molto motivato e ho deciso proprio all'inizio di quest'anno di servire in aree lontane dalla mia routine di servizio. Servo comunque in parecchie aree e il pastore lo sa bene. Infatti ogni volta che lo vedo gli chiedo: pastore, c'è da fare qualcosa? C'è sempre qualcosa da fare. E il pastore mi dice: effettivamente c'è la transenna da prendere in fondo alla strada. Allora io, è un po' pesante da prendere da solo, però l'ho promesso a Gesù e lo devo rispettare. Allora vado, prendo la transenna e la riporto in chiesa. Poi magari torno in un'altra occasione: pastore, c'è da fare qualcos'altro? E il pastore dice: sì, c'è da chiudere quella finestra. Allora io mi ingegno, prendo la scala, l'asta e chiudo la finestra. E devo dire di essere grato a questo versetto proprio perché mi ha permesso di servire in aree dove ancora non avevo dato la mia priorità a Gesù. E a quanti come me davvero sono stati incoraggiati da questo? E quello che mi ha fatto molto pensare, io personalmente sono stato molto incoraggiato, come ci dicevo, ma cosa succede quando la voglia di fare viene meno e perdiamo motivazione? Cerco di spiegare un attimo. Magari siamo nel nostro servizio con Dio, o siamo a lavoro, o stiamo facendo qualcosa e stiamo dando il nostro 100%. E poi magari ci passa per la testa un pensiero, una cosa che non ci fa vivere bene, un peccato ricorrente nelle nostre vite. E ci capita di, mentre prima eravamo molto entusiasti per quello che stavamo facendo, stavamo dando il nostro 100% a Lui, ci blocchiamo, ci inibiamo e perdiamo motivazione. Ci sentiamo bloccati, inibiti. Ci va di allentare la corda e magari pensiamo anche di smetterla. A quanti come me è successo questo? Sì. Per fortuna non siamo gli unici a vivere questo. C'è stato un ragazzo, tanto tempo fa, che ha vissuto più o meno lo stesso tipo di situazione. Il suo nome è Giosuè. E quindi leggiamo in Giosuè, dal capitolo 1, versetto 1, dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu, con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve la do. Come ho detto a Mosè, dal deserto e dal Libano, che vedi là, sino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, sino al Mar Grande, verso occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te, a tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andare. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese. Allora prospererai. Non te l'ho forse comandato io? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te ovunque andrai. E poi nella parte conclusiva del capitolo vediamo Giosuè, dopo quello che abbiamo letto, dire al popolo: ok, dai ragazzi, prendiamo tutto quello che abbiamo e andiamo verso quella che è la terra che il Signore ci ha promesso. E quindi continuiamo a leggere dal verso 16. E quelli risposero a Giosuè e dissero: noi faremo tutto quello che ci hai comandato e andremo ovunque ci manderai. Ti ti ubbidiremo interamente, come abbiamo ubbidito a Mosè. Solamente sia con te il Signore, il tuo Dio, come è stato con Mosè. Chiunque sarà ribelle ai tuoi ordini e non ti ubbidirà alle parole, qualunque sia l'ordine che gli darai, sarà messo a morte. Solo, sii molto forte e coraggioso. Cerchiamo di capire un attimo la situazione. Giosuè era stato scelto come successore di Mosè. Mosè aveva guidato il popolo di Israele per 40 anni, nel deserto, lontano dalla schiavitù che gli stava imponendo l'Egitto. E Giosuè aveva vissuto molto tempo al fianco di Mosè. E c'è stato, leggiamo anche che c'è stato un vero e proprio tempo di preparazione. E poi, nel momento più importante, nel momento critico, Mosè muore. Io penso che Giosuè in qualche modo era entusiasta che prima o poi sarebbe stato lui a guidare il popolo di Israele. Però in questa situazione vediamo che Giosuè, nonostante i suoi anni di preparazione al fianco di Mosè, è come se teme, ha paura, è in un certo modo inibito. E possiamo paragonare questo a una situazione, come dicevo prima, che abbiamo vissuto. Magari eravamo al 100% nel nostro lavoro, stavamo credendo a quella promessa che il Signore ci aveva fatto, e poi ci ritorna in mente quella situazione che non ci fa vivere bene, quel qualcosa che non ci fa continuare, che ci fa voglia di lasciare, di lasciar perdere. Però, attraverso questo versetto, noi abbiamo il giusto incoraggiamento per andare avanti. Non te l'ho forse comandato io? È una domanda retorica. È il Signore a dirci quello che ci sta per dire. Sii forte e sii coraggioso. Vai avanti, continua a credere in quello che io sto facendo, perché te l'ho messo io nel tuo cuore. Non temere, non aver paura. Ci sono io con te al tuo fianco. Facciamolo, facciamolo insieme. Ci sono io con te, è Dio a dircelo, perché io sarò con te, perché il Signore a dirci io sarò con te ovunque tu andrai. Che grande dichiarazione di amore, che grande dichiarazione di amore. È il Signore a dirci che dobbiamo essere forti e coraggiosi, continuare a credere a quella promessa che Lui ci ha fatto. Continuare ad andare avanti, a servirlo. Magari stai servendo in un'area dove il Signore ti ha detto di servire e magari qualcosa non sta andando bene. Non mollare, continua a credere in quella promessa che il Signore ti ha fatto. Magari qualcosa lavoro non va, ci sarà sempre qualcosa che non andrà, purtroppo. Però attraverso questo versetto noi abbiamo il giusto incoraggiamento per continuare a credere a quello che il Signore ci sta dicendo. Voglio farci io una domanda retorica. Quale situazione è più grande di Dio? La risposta è nessuna. Nessuna ansia, nessuna paura, nessuna preoccupazione, nessuna cosa negativa è più grande di Dio. Amen? Pensiamo a quella situazione che non ci sta facendo vivere positivo, non ci sta facendo vivere alla grande in questo periodo. Cos'è rispetto a Dio? Troppo piccola. Voglio concludere facendoci un esempio. Immaginiamo di avere un bicchiere in mano con dell'acqua dentro. Quanto può pesare? 2, 3, 4, 500 grammi? Un peso relativamente basso. La cosa a cui noi dobbiamo fare attenzione non è il peso effettivo del bicchiere, perché nel tempo rimarrà lo stesso, ma è per quanto tempo noi lo teniamo in mano. Perché se lo teniamo in mano per un minuto non accadrà nulla. Se lo teniamo in mano per un'ora inizierà a farci male il braccio. Ma se lo teniamo in mano per tutta la giornata avremo il braccio paralizzato. Immaginiamo questo con quella situazione che non ci fa vivere bene. Perché se ci pensiamo per un minuto, ok, potrebbe non accadere nulla. Se ci pensiamo per un'ora, forse potrà accadere qualcosa. Anzi, quasi sicuramente inizierà a farci male. Ma se invece ci pensiamo tutta la giornata, avremo il braccio paralizzato. Ed è quello che vuole fare Satana con le nostre vite. ci vuole far sentire soli, inibiti, bloccati, con l'acqua alla gola, non ci vuol far vedere quella via d'uscita. Ma ricordiamoci sempre che in qualsiasi momento possiamo prendere quel bicchiere e posarlo. Sappiamo dove? In Dio. E sono certo che non c'è posto migliore di dove posare le nostre ansie, le nostre paure, le nostre preoccupazioni e tutto quello che non ci fa vivere bene. Amen? Dietro ogni storia c'è una storia. Oggi possiamo scegliere come andrà la nostra. Chiesa, sii forte e coraggiosa. Sorgi e risplendi. Amen? Grazie. Non credo si mantenga. Buongiorno Chiesa. Io non dovrei essere qui, però... No, a parte scherzi, se nella nostra vita vediamo tutti i contro, molte volte veniamo bloccati dal fare delle scelte che sono nella volontà di Dio. Se io vedessi tutte le cose contro, diciamo, nell'essere qui oggi, non sarei venuto perché magari posso avere un problema di ansia o posso avere paura di sbagliare, però non è questo che Dio vuole per noi, ok? Il mio messaggio è molto collegato a quello di cui ha parlato Giuseppe e io parlerò di come affrontare i problemi. Innanzitutto vorrei rompere un pochino il ghiaccio, data la mia ansia e la mia voce è tremolante, nel dire che sono un ragazzo che innanzitutto mi chiamo Bartolo, per chi non mi conosce, 18 anni. Sono un ragazzo che muore di caldo, infatti stamattina almeno 10 persone mi hanno detto tu in t-shirt? Sì, sì. Poi ho chiesto a Giuseppe cosa ti metti oggi? Così mi metto qualcosa di simile. Dolce vita, giacca, non lo so, adesso sarei tipo, non so, bagnato, però va bene. Allora, come affrontare i problemi? Iniziamo dal dire che ho cercato su Google cos'è un problema. Quindi innanzitutto cerchiamo di capire qual è la situazione che dobbiamo affrontare. Un problema è un quesito che attende una soluzione. Mi ha fatto riflettere questa piccola definizione proprio perché non è un quesito, non è un quesito punto, è un quesito che attende una soluzione. Quindi noi ai nostri problemi dobbiamo trovare una soluzione, dobbiamo risolverli per poter andare avanti, ok? Ho pensato anche che fin da piccoli ci vengono posti dei quesiti. Possiamo, cioè già dalla nascita possiamo dire che un quesito è mangio questo cibo o no. I bambini piccoli molte volte non vogliono mangiare determinato cibo, non gli piace il colore, il gusto. Oppure anche fin dalle elementari i problemi matematici, un tipico esempio di problemi che ognuno di noi conosce, è proprio questo, cioè come risolvere un problema. Hai due mele, ne devi aggiungere due, qual è il risultato? Quindi noi fin da piccoli dobbiamo, diciamo, veniamo spinti dalla società, da qualsiasi evento della nostra vita, qualsiasi occasione, a scontrarci con dei problemi. Ora ciò che cambia non è il problema, ma è come va affrontato un problema. E noi sappiamo che va affrontato con Dio, qualsiasi problema della nostra vita. Non per forza il problema di matematica, però. Quindi veniamo spinti dalla società ad imparare a risolvere i problemi, e poi ognuno di noi, diciamo, è diverso, quindi... lo risolve in una determinata maniera. Quindi oggigiorno possiamo notare che ci sono vari corsi anche che ti insegnano a risolvere le tue problematiche. Ad esempio, per chi va a vivere da solo, magari può essere un problema saper cucinare. Oggigiorno ci sono corsi di cucina. Oppure, se tu sei insoddisfatto del tuo fisico, è un problema. Ci sono corsi per allenarti. Cioè, ci sono corsi per veramente di tutto. Anche di cose che magari possono sembrare inutili, ma che poi migliorano il nostro essere e la nostra persona. Quindi, purtroppo però, notando che ci sono tanti corsi, possiamo anche notare che ci sono tante cose che nessuno ci può insegnare. Volevo raccontarvi una piccola testimonianza personale. L'anno scorso ho vissuto un momento, qualche mese, diciamo, di depressione nella mia vita, in cui ho smesso di fare qualsiasi corso, ho smesso di venire in chiesa, ho smesso di andare a scuola, ma questo è stato un'occasione proprio per farmi rendere conto che ci sono esperienze, ci sono cose che non puoi imparare da solo o che non ti possono essere insegnate. Anche qui ho voluto cercare su Google il significato. Possiamo vedere che depressione è una reazione fisiologica agli eventi della vita. Essa è un momento di crisi, spesso scatenato da lutti, fasi difficili, perdite, difficoltà, che però allo stesso tempo dà inizio alla rielaborazione psicologica che consente di superare il momento difficile e di trovare nuove soluzioni. Di tutto questo, che magari può sembrare scontato, molti vedono la depressione come apatia, come un momento di pigrizia, ma di tutto questo ciò che mi colpisce è che la soluzione consente di superare un momento difficile e di trovare nuove soluzioni. Perché da ogni problema scaturisce un miglioramento. Da ogni problema c'è una soluzione che implica un miglioramento della nostra persona. Però ho paragonato Dio alla depressione. Non in senso, non Dio è depressione, ok? Però, a differenza della depressione, Dio non aiuta a trovare la soluzione, ma Dio è la soluzione, ok? Quindi è scontato dire che avere fede è importantissimo, bisogna sempre avere fede, perché senza di essa è un pochino più complicato. Ora, cosa è la fede? La fede, in Ebrei 11:1, bene, è fondamento delle cose che si sperano e prova di cose che non si vedono, perché la fede non è una cosa palpabile, non è questo iPad, non è questo... leggio, però è qualcosa che tu non puoi toccare con mano, è qualcosa che tu devi sentire, devi scegliere di sentire molte volte e deve essere una scelta guidata dallo Spirito Santo. Puoi mostrare il prossimo verso? In 2 Corinzi 5:7 possiamo vedere che camminiamo nella fede e non ancora in visione. E questo versetto serve proprio a confermare il fatto che molte volte non è qualcosa in cui noi magari crediamo, qualcosa che noi possiamo vedere o qualcosa che noi ci aspettiamo, ma è qualcosa semplicemente nella volontà di Dio che va affrontato e va seguito. Quindi, mostrando l'ultimo versetto, Marco 11:24, che dice: per questo vi dico, tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. E proprio questo possiamo notare che la fede è anche un modo per connetterci con Dio, come noi sappiamo, e di chiedere a Dio ciò di cui abbiamo bisogno, perché nonostante Lui lo sa ciò di cui noi abbiamo bisogno, Lui sa qual è il meglio per noi, Lui vuole che noi ci arrendiamo e che noi dimostriamo sottomissione nei Suoi confronti. Ok? Ora, questo versetto non deve essere frainteso, perché... non è una bacchetta magica Dio, che nel momento del bisogno lo usiamo, non è l'ombrello che quando piove lo togli, questo è una cosa che mi dice mamma fin da piccolo, ma Dio semplicemente vuole che noi seguiamo il suo piano, quindi tutto ciò che noi chiediamo ci verrà dato se è nella sua volontà, ok? Ok, chiesa? Quindi vorrei farvi vedere un'immagine, è proprio perché molte volte noi crediamo di avere il controllo nella nostra vita, questa immagine ne è un esempio. Allora, io ho fatto questo disegno, ho cercato un pochino, però è difficile col dito disegnare. Noi, la nostra vita è quella pallina, mi sposto un attimo, e voi direte, cosa ci rappresenta questo? La nostra vita va avanti, ok, ma per andare avanti, una pallina ha bisogno di una spinta, e questa spinta è causata proprio dai momenti giù. Perché se la pallina non andasse giù, non potrebbe mai risalire. Come vedete nella seconda, nel piccolo disegnino, possiamo notare che la pallina è ferma, e voi vi chiederete perché è ferma. La pallina è ferma proprio perché non sta subendo nessuna spinta. In linguaggio fisico, oppure in linguaggio quotidiano, possiamo dire che questa spinta è causata, come vi ho detto, dalle situazioni negative. Quindi se noi nella nostra vita non viviamo situazioni negative, non possiamo migliorare, perché se andasse sempre tutto bene, sarebbe troppo facile. Non sarebbe una vita, sarebbe un gioco, non so. E quindi Dio manda le esperienze... No, Dio non è che ci manda le esperienze negative, però lascia sì che accadano, proprio per far sì che noi cresciamo. E ovviamente Dio pensa che quello che Lui ci manda, quello che ci accade nella nostra vita, va affrontato con Lui. Ecco perché c'è un miglioramento, perché senza di Lui, come nel mio caso, avendo depressione, senza di Lui non c'è stato miglioramento inizialmente. Okay? Quindi, punto chiave per questa predica, ciò che noi pensiamo sia la cosa migliore non è sempre la cosa migliore, ovvero non è sempre il piano di Dio, ok? Perché credo siamo tutti d'accordo che il piano di Dio è la cosa migliore per la nostra vita, ok? Ora possiamo vedere anche un altro esempio. Posso mandare il video, sa? The fleas are placed inside the jar and the lid is then sealed. They are left undisturbed for 3 days. Then, when the jar is opened, the fleas will not jump out. In fact, the fleas will never jump higher than the level set by the lid. Their behavior is now set for the rest of their lives. And, when these fleas reproduce, their offspring will automatically follow their example. Questo video l'ho visto qualche tempo fa, ho detto io me lo salvo, non si sa mai. E infatti, allora, questo video rappresenta ciò che il nemico vuole per noi, ok? Per chi non è riuscito a seguire, faccio un mini riassunto. Le pulci, secondo questo esperimento, se vengono messe in un barattolo per 3 giorni, quando il barattolo viene aperto, non escono. Voi sapete che le pulci, la vita delle pulci è andare magari da un animale all'altro, quindi una vita di movimento, una vita in azione, ma il barattolo e quindi le circostanze negative, in questo caso, bloccano il loro scopo di vita. E una cosa che vi volevo dire è proprio questa, che noi non dobbiamo farci bloccare dalle situazioni, non dobbiamo far sì che una situazione affetti ciò che è il piano di Dio, perché tutte le persone, 8 miliardi di persone che siamo sulla faccia della terra, non c'è uno che non abbia mai vissuto un problema o una situazione difficile. Questo, quindi vi volevo dire che, come tutti sappiamo, Dio, uno dei tanti aggettivi che Dio ha è amore. Dio amore, e l'amore non blocca. Posso farvi degli esempi. In una relazione a distanza l'amore continua, se è vero amore. Oppure per amicizia, io sono amico di Mattia, se lui fa un errore nei miei confronti lo perdono per amore, la relazione non si blocca, va avanti. Quindi questo è un, diciamo, un consiglio che voglio darvi, un punto di vista, diciamo, su cui ho riflettuto, che l'amore sblocca, non blocca. Quindi Dio sblocca tutti i problemi della nostra vita, tutte le situazioni negative che affrontiamo. E concludo dicendo questo piccolo versetto, non serve mandarlo, Giovanni 3,16: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Cioè, quando noi ce ne andiamo dalla terra, per dirvelo in una maniera carina, noi sblocchiamo la vita eterna grazie a Dio, ok? Quindi non è una fine ma è un nuovo inizio. E quest'anno, come ha detto Giuseppe, la parola della Chiesa è sorgi e risplendi, quindi Dio vuole questo per la nostra vita. Dio vuole sbloccare quelle aree buie, quelle aree chiuse della nostra vita. Dio vuole aprire quel barattolo, ma non solo aprirlo, vuole romperlo affinché noi riusciamo, affinché le pulci riescano ad uscire, affinché noi riusciamo a vivere la nostra vita secondo il suo scopo per noi, non secondo le nostre idee. Quindi vorrei invitarvi ad alzarvi per un momento di preghiera. Chiudiamo i nostri occhi. Signore, vorrei pregarti questa mattina per la Chiesa, Signore, vorrei pregarti per le vite di ognuno di noi. Vorrei citare 1 Corinzi. Ora dunque queste 3 cose rimangono: fede, speranza ed amore, ma la più grande di essa è l'amore. Signore, ti ringrazio perché tu sei amore per noi, ti ringrazio per l'opportunità di essere qui oggi a portare ciò che tu vuoi che io porti a questa Chiesa. Grazie per far sì che noi possiamo essere degli strumenti nelle tue mani e possiamo veramente migliorare, diciamo, la vita di ognuno di noi. Ti prego che la Chiesa possa avere fede in te, Signore, possa avere amore e possa riuscire sempre ad avere la speranza che tu metti nei nostri cuori, Signore. Nel tuo santo nome, amen.